dolce venerdì. Io tu Gandhi e Martin Luther King, the king, à la gare Bercy, ma che odore, con Mandela scorreggion, che si sporca il nero mutandon. Buongiorno Mike, e si ride.